Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gabriele D'Andrea di Lucky Red che lo distribuisce parliamo del film Cafarnao, Caos e Miracoli di Nadine Labaki al cinema da giovedì 11 aprile 2019. Gabriele, ben trovato. Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori. Lo raccontiamo brevemente? Sì, parliamo di un film che non è semplice da raccontare, perché è un film che lavora molto sulle emozioni e sul vissuto di ciascuno di noi. È un film che geograficamente è ambientato a Beirut, e in un sobborgo di Beirut. Perché è specifico geograficamente? Perché in realtà la storia che si svolge è una storia che riguarda ognuno di noi, quindi trascende il luogo geografico, però la storia prende il via da un sobborgo di Beirut dove bambini e adulti vivono in condizioni disastrose, fuori da ogni canone di umanità e civiltà, e non hanno neanche dei documenti, vivono ammassati in queste case fatiscenti, fuori veramente da ogni logica di civiltà. E in questo sobborgo nasce la nostra storia, nasce un eroe, il piccolo Zain, che ha 11 anni, ma in realtà è molto più uomo di quanto anagraficamente sia certificato. E Zain darà vita ad un atto di ribellione, ad un atto di protesta, si ribellerà al destino che la vita sembra avergli assegnato e inizierà un viaggio, quindi un piccolo Ulisse, un viaggio che poi fortunatamente lo porterà a raggiungere il suo sogno, cioè avere una vita. La regista la conosciamo già in Italia, vero? Sì, è una regista affermata, e il suo film precedente più famoso è Caramel, ed è una regista che noi seguiamo con grande interesse, e lei è ancora abbastanza giovane, però è una regista molto importante, e non a caso ha realizzato questo film che si discosta un po' da Caramel, che aveva un tono più leggero. Qui invece entriamo in toni più intensi, più drammatici, però è riuscita a farlo con una grande maestria e grande abilità cinematografica. E lei, basti pensare che si è documentata a tre anni di ricerche per fare questo film. Lei ovviamente è libanese, e tre anni di ricerche ed ha girato 12 ore aveva 12 ore di montato, quindi da 12 ore di montato è arrivata a 2 ore di film, quindi c'è stato un grande lavoro di montaggio. Basti pensare che gli attori non sono attori professionisti, e che nel film sono presenti dei bambini, come accennavo parlando un po' della storia, e lei ha filmato questi bambini con estrema naturalezza, cioè quando i bambini dormono nel film, dormivano effettivamente anche durante le riprese, quindi questo ha dilatato chiaramente i tempi di regia, però ha dato al film un tocco di realismo molto speciale. Quindi una grande regista che è stata chiaramente riconosciuta dal cinema internazionale, tant'è vero che a Cannes il film ha vinto il premio della giuria e poi è stato candidato all'Oscar e al Golden Globe come miglior film straniero, quindi dei riconoscimenti importanti. All'estero, in sala, dove è uscito? Praticamente ovunque, siamo quasi l'ultimo territorio uscito, penso dopo di noi ci sia soltanto il Giappone, quindi il primo territorio è stata la Francia, dove il film, appunto, avendo partecipato al Festival di Cannes, godeva di una notorietà importante. Poi ci sono stati gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, quindi il film è stato fortunatamente distribuito in molti territori internazionali, sia occidentali che orientali. Ad esempio anche in Corea il film ha avuto una distribuzione ed ha avuto anche un discreto successo, quindi una storia che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo, perché comunque è una storia talmente forte e talmente vera che non poteva essere altrimenti. Sai le ragioni di questo titolo e poi il vostro sottotitolo? Sì, il titolo ha una doppia accezione. Chiaramente ci avviciniamo a Pasqua, siamo in un momento di Quaresima e quindi è evidente che Cafarno è il luogo in cui Gesù per la prima volta si manifesta compiendo un miracolo, e quindi è un titolo fortemente evocativo, perché come accennavo prima, Zain, il nostro protagonista di 11 anni, è un eroe, cioè un piccolo Ulisse, ed è un miracolo, è una scintilla di speranza in un contesto di perdizione, e quindi il titolo rimanda sicuramente a questo miracolo che avviene, che si incarna in Zain. È anche un sinonimo di Babele, cioè quindi un luogo estremamente contaminato, un luogo caotico, confusionario, in cui a confondersi e a dissolversi sono anche proprio i limiti dell'umanità, della civiltà, del diritto. Quindi ecco, il titolo ha questa doppia accezione, una religiosa ed una invece più sociale. Caos e miracoli rimanda proprio, diciamo, a questa doppia accezione del titolo. Sì. Gabriele, in quante sale arriverà? Allora, il film avrà una prima distribuzione in 100 sale che coprono in modo abbastanza capillare le principali città, ma anche le province italiane. Poi è già in previsione un allargamento sulla seconda settimana, che sarà la settimana di Pasqua, e quindi insomma il film sarà disponibile a tutti gli spettatori, quindi faremo molta attenzione affinché questo avvenga, perché vogliamo proprio anche una missione di Lucky Red, che è un film così bello e così pregnante di significato, sia accessibile a tutti, in alcune situazioni anche nella versione originale, che sappiamo essere molto cara a un certo tipo di pubblico. E allora ricordiamo il film Cafarnao, Caos e Miracoli di Nadine Labaki, al cinema da giovedì 11 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Gabriele D'Andrea di Lucky Red, che distribuisce questo film. Gabriele, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e grazie a voi, a presto. Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Oro Verde, C'era una volta in Colombia, al cinema da giovedì 11 aprile 2019. Eddie, ben trovato. Ciao, grazie a voi. Ci presenti questo lavoro? Sì, è il nuovo film di Ciro Guerra, un autore che forse qualcuno conoscerà già, che qualche anno fa presentò un film che incuriosì molto, si chiamava L'abbraccio del serpente. Torna questa volta in coregia con la moglie Cristina Gallego e presenta questo film che è, mi sento veramente di dire, il film dell'anno nel circuito dei festival. Ha cominciato a Cannes l'anno scorso e poi ha veramente viaggiato in tutto il mondo, Locarno, Sundance, Londra. Il film racconta faccia in qualche modo le origini del narcotraffico in Colombia, una sorta di prologo di Narcos, ma lo segue da una prospettiva molto particolare, ovvero quella di una famiglia indigena. Abbiamo una serie di personaggi fantastici, la matrona, la figlia e il pretendente che poi diventa lo sposo della figlia, che dovranno in qualche modo negoziare la propria cultura tradizionale di fronte ad una nuova inaspettata ricchezza. Ma l'avidità e la sete di potere di questa famiglia metteranno a repentaglio non solo le loro vite, ma tutta la cultura di un popolo. Quali sono gli elementi che ti sono piaciuti di questo film? È un mix straordinario di diversi elementi. Inizia come un film che definirei antropologico, cioè questa osservazione magnifica dei riti, degli usi, dei costumi di questa tribù indigena in questo deserto colombiano fuori dal tempo. E man mano che il film va avanti diventa qualcosa come una specie di gangster movie, oppure come una tragedia greca o qualcosa di shakespeariano. È incredibile il modo in cui i registi sono riusciti a tessere assieme tutti questi elementi che sono apparentemente così diversi e distanti, hanno creato un'opera che è veramente unica. Uno degli elementi è anche l'eleganza estetica, la cura dell'immagine di guerra. Assolutamente, è uno dei tratti distintivi di tutto il suo cinema e in particolare di questo film. La bellezza e la precisione delle immagini è anche dovuta al fatto che la lavorazione del film è stata fatta con veri indigeni di questa tribù colombiana, si chiamano Wayuu, che quindi hanno potuto dare molto conoscenza rispetto all'esattezza dei riti che vengono messi in scena, all'esattezza delle credenze, anche dei costumi magnifici che vediamo nel film. Mi dicevi che a livello internazionale il film ha riscosso molto successo. Dove è stato distribuito finora? Ma il film è stato acquistato per tutto il mondo. Al momento è uscito naturalmente in Colombia, dove è stato un successo nazionale, è stato anche un candidato colombiano per gli Oscar, è uscito negli Stati Uniti qualche settimana fa riscontrando un ottimo successo, questa settimana uscirà in Italia e contemporaneamente anche in Francia e man mano uscirà in tutti gli altri stati del mondo. È veramente stato un sold out immediato a Cannes lo scorso anno, dove era sicuramente uno dei titoli più in vista, più ricercati, più proteggiati, distributori in tutto il mondo. Che tu sappia, ci sono state reazioni da parte delle comunità indigene? Non so di preciso il tipo di reazione che c'è stata al film in Colombia, ho visto i risultati al botteghino colombiano, posso immaginare che sia stata molta curiosità. Posso dire quello che stiamo notando rispetto alla promozione della comunicazione che stiamo facendo in Italia, perché anche in Italia c'è evidentemente una comunità colombiana o sudamericana che non si trova spesso rappresentata sul grande schermo, che quindi una volta che ha la possibilità di vedere un prodotto culturale come questo film al cinema, naturalmente ne trova curiosità. È proprio il segno della curiosità quello che noto, un voler confrontarsi con qualcosa che culturalmente gli appartiene. C'è poi una questione che è quella legata a tutta la mitologia del narcotraffico, di cui serie molto famose come Narcos, piuttosto che i vari film della serie Escobar, insomma, hanno reso particolarmente note in Italia. Ovvio, quello che queste comunità ci dicono è: noi non siamo solamente gangster, violenza e narcotraffico, e penso che questo film potrà piacergli particolarmente perché va proprio in questa direzione, ovvero ci racconta di una cultura molto ricca, speciale, fatta di riti e credenze molto più profonde rispetto all'immagine superficiale che certi prodotti, chiamiamoli più americani, ci hanno passato fino ad ora. In quante sale sarà? Usciremo questa settimana in circa 30 sale in tutta Italia, un numero di sale selezionate, e contiamo sull'appoggio del pubblico per poter raggiungere molte più altre città a partire dal prossimo weekend.

Crepi, grazie, grazie. Con Andrea Pacomariani per parlare del collettivo di produzione SMK Video Factory, quello che ha fondato OpenDDB, che festeggia i 10 anni di attività a Bologna, al VAG 61, dal 12 al 14 aprile 2019. Paco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Raccontaci. Sì, allora, come giustamente dicevi, che è una cosa che non sempre tutti sanno, noi in realtà storicamente siamo un gruppo di mediativisti, abbiamo fatto diversi documentari come appunto l'ultimo The Harvest, che di cui abbiamo già parlato, e anche Milky Way, che adesso è il film che stiamo girando in questo momento sulle Alpi tra la Francia e l'Italia, dove i ragazzi migranti svalicano a piedi durante la notte per andare verso la Francia. Per cui in realtà noi prima di tutto siamo stati e siamo una produzione video indipendente. Poi 6 anni fa abbiamo fondato Distribuzioni dal Basso, come accennavi, però i primi passi di SMK, che è il nostro collettivo di produzione, sono stati fatti proprio 10 anni fa, nel 2009, e quindi ci tocca festeggiare un minimo, nel senso che ogni tanto è anche giusto e importante approfittare degli anniversari, non semplicemente per fare l'elenco di ciò che è stato fatto, ma per costruire anche dei momenti partecipativi, ed è quello che abbiamo cercato di mettere in piedi in questi 3 giorni che faremo appunto a VAG 61, dove abbiamo anche noi sede, assieme a tanti altri progetti che attraversano il centro sociale di VAG 61 a Bologna. Diciamo che da 3 giorni cerca un po' di rispecchiare l'equilibrio tra due cose: da un lato raccontare quello che abbiamo fatto in questi 10 anni e quello che stiamo facendo adesso, quindi le nuove produzioni, ma per evitare che si riduca tutto a un elenco, come vi dicevo prima, lo faremo anche interagendo con tanti ospiti e andando anche poi a fare dei focus tematici su alcuni dei temi che noi in questi anni abbiamo toccato, sia con le produzioni ma anche un po' con tutto l'immaginario che abbiamo costruito anche sulla piattaforma di OpenDDB, eccetera. Sono 3 giorni molto ricchi di iniziative e ovviamente nella lunga lista di ospiti, molti di questi ospiti sono in realtà collettivi, autrici, autori, registi, scrittori, fumettisti, quant'altro, che gravitano già attorno, diciamo, alla nostra rete, alla nostra community, proprio perché, come sapete bene, OpenDDB, ancora prima di una piattaforma on demand, è un stimolatore di creazione di reti e di networking. Quindi molti di questi ospiti, da Filippo Vendemmiati, che è un giornalista Rai e che vinse il David Donatello con il documentario su Federico Aldrovandi, passando per Rezza Mastrella, che ovviamente ormai sono a pieno titolo nella nostra community con alcuni dei loro film che abbiamo in catalogo, e tra l'altro presto pubblicheremo nuovi film che ci hanno mandato per la distribuzione on demand. E poi, per esempio, non so, venerdì sera faremo anche un tavolo su Balcani e Palestina, non perché abbiano per forza qualcosa di particolarmente in comune, anche se quella sta scavando, secondo me sì, ma perché sono 2 zone del mondo dove noi abbiamo, per esempio, mosso in più occasioni alcuni dei nostri passi e dove abbiamo costruito delle contronarrazioni, che in realtà, se ci pensate, sia la Palestina che i Balcani, in 2 modi molto diversi, hanno sempre avuto molto bisogno di contronarrazioni dal basso, che siano documentari, libri e quant'altro, proprio perché sono 2 zone del mondo e 2 comunità nel mondo che hanno subito negli anni spesso una narrazione mainstream molto discutibile, e non è un caso, credo, che ci siano tanti autori indipendenti che in questi territori hanno fatto dei film dal basso indipendenti, proprio perché risponde anche a questa esigenza, e anche noi siamo in quella strada lì. Chiuderemo poi con un tavolo che faremo domenica pomeriggio con diverse realtà con cui abbiamo collaborato in questi anni, e chiudendo anche con la presenza del collettivo marsigliese Premi TV, che è uno dei collettivi di produzione video giro per l'Europa che abbiamo iniziato ad aggregare in questi anni sempre su OpenDDB. Dicevo, appunto, chiuderemo molto alla grande, e siamo molto felici di questa cosa, con un incontro pubblico con Ascanio Celestini, canzone simile non ha bisogno di presentazione, ovviamente, perché tutti sappiamo benissimo chi è e il percorso che ha fatto in questi anni, e anche se sicuramente, come potete immaginare, non è un autore che attraversa ancora OpenDDB, l'auspicio è anche incontrarsi in questo giorno di festa conclusivo per provare a immaginare invece dei percorsi di condivisione da fare anche con lui, che è sicuramente un tipo di autore molto attento anche non solo a cosa si produce e realizza, ma anche al modo in cui poi queste opere culturali e artistiche possano essere diffuse. Chiuderemo ovviamente con lui, non tanto con uno spettacolo, perché ovviamente non abbiamo lo spazio adeguato per uno spettacolo teatrale, ma con un incontro delle letture che si focalizzeranno proprio sulle varie tematiche che noi andremo a toccare in queste giornate, dal revisionismo storico alle fake news, dalle contronarrazioni, a provare a immaginare ostinatamente, e ancora per, speriamo per altri almeno 10 anni, forse più, a ostinarci a costruire delle valide alternative, non solo in termini di produzione di contronarrazioni e produzione indipendente, ma anche di diffusione dal basso, che sono i due pilastri del nostro percorso che ormai qualche anno alle spalle ce l'ha. Bene. Ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, potete trovare tutte le informazioni dettagliate sul blog di Vaghi61, altrimenti sui social network o anche sul blog di OpenDDB, e le giornate, appunto, come accennavi, saranno sempre, a parte la domenica, dal tardo pomeriggio, dal venerdì, sabato e domenica compresi, tutte e tre le giornate saranno appunto a Vaghi61 in via Paolo Fabbri 110 a Bologna. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Con Emanuela Ceddia di I Wonder Pictures per parlare del documentario Quello che i social non dicono, dal 14 al 17 aprile 2019 al cinema. Emanuela, ben trovata. Ben trovato, eccoci. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Certo, molto volentieri. Quello che i social non dicono, titolo originale The Cleaners, è un film che ci porta dietro le quinte di qualcosa che noi forse crediamo di conoscere molto bene, il mondo dei social, e che questo film ci dice che forse in realtà non conosciamo così bene, un po' come tutto ciò con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Crediamo di muoverci su un terreno dove tutto è in chiaro, e invece il film ci mostra come dietro le quinte del web e dell'universo social si nascondono delle realtà che assolutamente ci sono oscure. È un mondo che probabilmente è molto diverso da quello che immaginiamo. E il film ci racconta come i grandi operatori del web operano di fatto una vera e propria censura rispetto a tutti i contenuti che noi introduciamo nel web, laddove pensiamo a un'assoluta libertà, perché poi abbiamo sempre vissuto appunto il mondo del web, il mondo dei social, come un approdo ad una libertà di informazione, di scambio reciproco. Scopriamo che invece non è proprio così, che i contenuti del web, le immagini, i video sono controllati dai grandi operatori, Facebook primo fra tutti, e vengono di fatto censurati. E fin qui già c'è una prima scoperta. Ma poi i registi ci portano a una scoperta ulteriore, forse ancora più interessante. Magari immaginiamo che sia un algoritmo, che sia un meccanismo numerico, statistico a operare questo tipo di censura, quindi che tutto si possa svolgere senza un intervento umano, senza un discernimento umano. E invece qui ci si disvela una importante realtà, ed è quella che in realtà ci sono migliaia e migliaia di persone all'altro capo del mondo rispetto a noi, in questo caso nelle Filippine, migliaia e migliaia di persone che fanno un lavoro di vera e propria pulizia rispetto ai contenuti del web. e quindi sono operatori in carne e ossa, sono esseri umani, con la loro personalità, le loro idee, i loro convincimenti etici, religiosi, che di fatto visionano tutti questi materiali e decidono che cosa rimarrà online e che cosa non rimarrà online. Naturalmente si muovono con un vademecum, si muovono secondo tutta una serie di indicazioni che parrebbero molto oggettive e che comunque vengono date loro appunto dai grandi operatori del web, ma sia questi criteri cosiddetti oggettivi, sia il fatto che poi davvero un essere umano che si trova davanti a una foto, a un'immagine scioccante, decida davvero solo secondo un criterio oggettivo, secondo un vademecum e non secondo appunto il proprio convincimento, il proprio retaggio, questo poi è tutto da dimostrare. E questo insomma è il percorso che ci fa fare il film, naturalmente queste a grandi linee, poi veramente i registi ci portano dentro le vite di queste persone, insomma il film è piuttosto scioccante effettivamente. C'è un punto di partenza però abbastanza ovvio rispetto alla censura, e cioè che abbiamo a che fare comunque con un'azienda privata alla quale affidiamo dei dati, quindi un vero e proprio scandalo non c'è in tutto questo, se a ben vedere. Ma guarda, ti dico, secondo me la tua osservazione è molto giusta e diciamo che mette un po' il dito in una piaga, nel senso, è vero, volontariamente decidiamo di affidare i nostri dati, di affidare, diciamolo, anche molto della nostra vita privata a un'azienda e nel fare questo probabilmente c'è anche molta leggerezza. Lo scandalo secondo me infatti non è tanto oggettivo e nei fatti. Lo scandalo sta nella percezione sbagliata che noi abbiamo del web, è questo che secondo me il film mette in luce, non tanto il fatto che poi un'azienda privata che gestisce appunto profili, contenuti eccetera, possa fare le proprie scelte operando appunto da privato, però c'è un'illusione, e questo a mio avviso emerge nel film, c'è un'illusione da parte di chi utilizza, certo, i social, di essere più libero di quanto in realtà non creda e di non essere così strettamente osservato poi da chi maneggia quei contenuti. E quindi questo è uno degli aspetti. Poi forse ce n'è anche un altro, è vero, sulla carta non c'è magari una qualche imputazione che si può effettivamente fare a questi operatori, però una grande domanda ci viene fuori, laddove c'è sempre stata in democrazia una grande attenzione rispetto al tema della censura, rispetto al tema della libertà, quando la censura viene operata da stati, da governi, c'è uno slittamento in peggio di attenzione rispetto al tema della censura, nel momento in cui, quando poi passiamo a un operatore privato e al nostro volontario trasmettere contenuti, questa attenzione, questa vigilanza rispetto alla censura viene forse un po' meno. Quali sono gli elementi di questo lavoro che più ti hanno impressionato? È la capacità che c'è stata nel film di dare la parola a questi cleaners, a questi spazzini del web, nel senso che senz'altro il film ci propone poi anche una serie di momenti pubblici, di processi, di interviste, eccetera, tutti i materiali che sicuramente sono molto, molto interessanti e ci fanno sentire opinioni di persone che naturalmente sono molto preparate sul tema, anche solo per doversi difendere la propria azienda rispetto a certi tipi di accuse, eccetera. Ma non è questo, secondo me, il punto più interessante, perché poi Zuckerberg lo sentiamo parlare tante volte, via discorrendo. L'aspetto più interessante sono proprio le interviste ai cleaners, queste persone che sono persone comuni, che fanno un mestiere, che loro approcciano inizialmente come un mestiere qualunque, come se davvero si trattasse magari di fare pulizia in un ambiente, in un ufficio, e poi quando si trovano nella pratica di questo lavoro che gli viene chiesto di fare, cominciano ad avere una serie di problemi. innanzitutto dei problemi etici, emerge in tutte le interviste che queste persone a un certo punto cominciano a farsi delle domande, sono costrette a farsi delle domande perché si trovano davanti a una serie di scelte, appunto se cancellare o ignorare e quindi lasciare un contenuto sul web o non lasciarlo. E la loro osservazione continua di immagini, di video, di situazioni li porta a dover capire di volta in volta come operare nel loro ruolo di censori. E poi c'è, oltre che il livello etico, c'è un livello profondo, psicologico, di shock vero e proprio che queste persone subiscono nel venire in contatto con un certo tipo di input, di situazioni anche estreme, perché sono poi situazioni di denuncia o di documentazione o di propaganda, ma tutte comunque quelle che appunto poi vengono censurate sono situazioni estreme ed effettivamente le immagini sono scioccanti, per cui queste persone si trovano veramente in una condizione di grande affaticamento proprio psicologico nello svolgere questo ruolo. E anche qui effettivamente ci addentriamo poi nell'approccio personale che ognuno di loro ha rispetto a questo lavoro e le criticità che trova, e insomma stupisce quello che dicono e ci fa anche molto, molto pensare, soprattutto perché, parer mio, ci si rende conto che in tutti i casi non si tratta di persone che hanno un armamentario, diciamo così, intellettuale, culturale, sufficiente ad affrontare quel tipo di problema, quel tipo di domanda, quel tipo di sollecitazione a cui invece vengono quotidianamente sottoposti. Dal 14 al 17 aprile in quante sale? Saremo in più di 100 sale, il film sarà ampiamente diffuso come merita, a mio avviso, non perché lo distribuiamo noi, ma perché effettivamente è un film che va visto, è un film veramente rivelatore, attualissimo, quindi sono molto felice, molto soddisfatta del fatto che non sarà difficile trovarlo nelle sale, perché avrà una bella diffusione, ampia. È stato accolto con grande attenzione dalle sale cinematografiche, dai circuiti, quindi insomma chi vorrà vederlo lo potrà fare nella propria città in maniera molto semplice. Ricordiamo l'uscita in sala del documentario Quello che i social non dicono, The Cleaners, il titolo originale, dal 14 al 17 aprile 2019 con iWonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Cedia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie e un abbraccio anche a voi. Con Maud Corino di Zalab, che distribuisce il film Eldorado di Markus Imhoff dal 14 aprile 2019, con un'anteprima con incontro col regista a Roma allo spazio Apollo 11 mercoledì 17. Maud, ben trovata. Grazie, buongiorno. Come lo racconteresti a chi ci ascolta? È un documentario di questo regista che si chiama Markus Imhoff, che è un regista svizzero, insomma, con una bella carriera alle spalle. Lui è, diciamo, famoso perché nel 1981 vinse l'Otto d'Argento a Berlino e poi con un film che si chiama La barca è piena, che poi è stato candidato agli Oscar per come il miglior film straniero. Parto da qua perché La barca è piena era insomma questo film di finzione che raccontava della Seconda Guerra Mondiale e di un gruppo di ebrei che viene prima fatto rifugiare che trova insomma salvezza prima in Svizzera, ma poi viene ricacciato indietro e rimandato in Germania con una fine amarissima, come la storia ci racconta. In questo suo lavoro di finzione era già ispirata la sua storia personale, perché Markus e la sua famiglia nella Seconda Guerra Mondiale ospitarono una bambina rifugiata, in questo caso italiana, perché c'era un accordo insomma internazionale rispetto all'ospitalità

2019 per 3 giorni, quindi 15, 16 e 17. Emiliano, ben trovato. Ciao, ciao. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Come? È un horror un po' sui generis, perché parla di un ragazzo neofascista che sta manifestando contro l'apertura di un centro d'accoglienza, esattamente come abbiamo visto in questi giorni fare tante volte. E d'un tratto scoppia un'apocalisse zombie proprio durante degli scontri che stavano avvenendo lì di fronte. Lui, per salvarsi, si rinchiude proprio all'interno del centro d'accoglienza e voleva far chiudere. E da lì in poi si ambienta tutto all'interno di questo centro d'accoglienza. Quindi lui, ragazzo giovanissimo neofascista, che deve interagire con gli abitanti e con gli ospiti del centro, con fuori gli zombie. Naturalmente, diciamo, la figura dello zombie in questo senso l'abbiamo utilizzata metaforicamente, insomma, per noi voleva rappresentare questo genere di rabbia cieca alla quale stiamo assistendo in questi giorni. Abbiamo provato un po' a riprendere la lezione nel nostro piccolissimo del maestro Romero, utilizzare gli zombie come contenitore vuoto da riempire, insomma, di altri significati. Com'era nato tutto il progetto? Guarda, eravamo io e Luna Gualano che stavamo discutendo di un episodio, uno di questi ennesimi episodi di violenza che erano accaduti in quel momento, se non sbaglio era quello di Fermo, dove un ultra del Fermo aveva colpito in situ un ragazzo di colore al quale aveva appena insultato la compagna, chiamandola Scimmia. Parlando con lei c'era probabilmente che effettivamente questo genere di rabbia, di odio immotivato riguardava moltissimo l'assenza di sentimenti, l'assenza di qualsiasi empatia, che è quella cosa dei zombie. Parlandone con lei ha fatto, vabbè, ma facciamo un film. E allora a quel punto abbiamo deciso di buttarsi in questo genere di impresa. E per fortuna ci siamo riusciti, ecco, insomma, andando fuori siamo riusciti a farlo. E la scelta di questo taglio horror? Un po' perché effettivamente secondo noi l'horror appunto si presta tantissimo ad essere metaforico, a raccontare la realtà attraverso una lente differente che quella dell'immaginario. E quindi abbiamo provato appunto a fare un film di attualità in qualche maniera. Noi speravamo che non fosse così di attualità in questo momento, ma purtroppo lo è sempre di più. E quindi a raccontare quello che ci circondava attraverso il fantastico, che secondo noi effettivamente probabilmente forse sia la maniera migliore, più che fare l'ennesimo film sui migranti, fare una cosa un pochettino differente, anche per provare a portare al cinema persone che magari non sarebbero state interessate all'argomento altrimenti. A quanto vedo si tratta di una produzione a più firme. Sì, praticamente è una produzione collettiva, abbiamo fatto un esperimento anche in questo senso, nel senso non esiste un vero e proprio produttore, cioè esistono una serie di piccole società, esistono una serie di piccoli produttori indipendenti, c'è stato un crowdfunding, ci sono state le persone che ci hanno lavorato dentro, che hanno lavorato mettendo a disposizione la propria professionalità, ci sono tutti gli artisti che hanno contribuito alla colonna sonora, che vanno da Mura il Canto a Piotte, Retto Luzzo e via dicendo, c'è Zero Calcare che ha fatto la locandina, e tutti quanti hanno in qualche modo partecipato alla produzione. Non esiste una casa di produzione grande che ha messo i soldi, è stato un progetto collettivo anche in quel senso. Questa distribuzione di 3 giorni? Sì, abbiamo pensato di uscire comunque un evento che appunto è questo del 15, 16 e 7 aprile a Roma, nello specifico sarà proiettato sicuramente, e speriamo se ne aggiungano altre, al cinema al Nuovo Aquila e al Lux. Uscirà appunto in questi 3 giorni, poi da lì in poi probabilmente uscirà, diciamo, in diverse altre sale e in diversi altri giorni, ma per ora ci stiamo concentrando appunto tanto su questi 3 giorni che sono quelli nel quale uscirà per la prima volta effettivamente il film al cinema. Ci dai tutti i riferimenti web per seguirlo? Sì, principalmente GOM è seguibile su Facebook, perché è quello sul quale siamo più attivi, facebook.com/gohomethemovie, tutto attaccato, ma basta scrivere GOM a casa loro nella ricerca, insomma, in qualche maniera spunta fuori. Altrimenti, cercando, diciamo, su Google si trova un po' di tutto, c'è Instagram, Twitter, mi sembra che non l'abbiamo fatto anche perché lo usiamo poco, c'è il sito, ci sono insomma diversi riferimenti in giro, è abbastanza semplice trovarci. Queste due date evento che ci hai segnalato, ci sarà la presenza vostra? Sì, al cinema al Nuovo Wagner e a Lux, sì, proveremo a essere entrambe, diciamo, quindi ci sdoppieremo in qualche maniera, faremo avanti e indietro, ecco. Ricordiamo il film Go Home, a casa loro, di Luna Gualano, al cinema il 15, 16 e 17 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento allo sceneggiatore Emiliano Rubbi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ciao. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film, che lo distribuisce, parliamo del documentario Kaiser, il più grande truffatore della storia del calcio, al cinema da martedì 16 aprile 2019. Francesco, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, ciao Federico. Raccontiamolo a chi ci ascolta. Allora, sì, è un film documentario che tratta la storia del famoso calciatore, truffatore, Kaiser, che era un calciatore brasiliano che non aveva alcun talento se non quello di riuscire a strappare importanti ingaggi con le più importanti società di calcio europee e sudamericane. Il film sarà distribuito dal 16 aprile in tutta Italia e speriamo di ottenere un buon risultato, poiché è una storia piuttosto famosa e alcuni giornali nazionali ci hanno dedicato più e più pagine, come ad esempio la Gazzetta dello Sport. Dove hai avuto modo di vederlo, Francesco? Anche questa è una storia curiosa, poiché ci siamo imbattuti in un articolo che trattava la produzione del film, quindi abbiamo iniziato a studiare passo per passo quello che stava accadendo con il film. Poi, una volta che è stato presentato al Tribeca, abbiamo deciso di iniziare una trattativa con la produzione finché non siamo riusciti ad aggiudicarselo. L'abbiamo visto, valutato, l'abbiamo trovato interessante e anche molto simpatico, per cui anche non rientrando nella nostra linea editoriale abbiamo deciso di provare a prenderlo e vedere che succede. Lo sfondo è quello degli anni 80 e inizi 90 in Brasile, ma non solo, dove i calciatori erano considerati delle vere e proprie star. Eh sì. Anche se è un argomento, come dire, che ci tocca da vicino, riguardando in parte anche la finale dei Mondiali 94 con il famoso rigore sbagliato da Roberto Baggio. È un film che a suo modo risulta molto simpatico, poiché a quei tempi non c'era internet, quindi diciamo che tutto si basava sul passaparola, e c'è stato questo calciatore che, avendo conoscenze piuttosto importanti con il mondo del calcio, ad esempio con Bebeto, che appunto era in campo nella finale mondiale del 94, riusciva a strappare contratti con importanti società grazie alle sue amicizie. Poi insomma aveva stretto anche alcuni rapporti con il mondo della malavita, quindi era agevolato in qualche modo a riuscire a essere ingaggiato senza mai scendere in campo. E ci sono diversi episodi molto, molto simpatici, come ad esempio venne presentato all'Ajaccio, però era incapace di tirare calcio ad un pallone, quindi che fece? Vide un diversi palloni in giro per il campo, iniziò a lanciarli al di là degli spalti al fine di non avere possibilità di palleggiare o dimostrare la propria capacità, incapacità nel gioco del calcio. Alcuni elementi del documentario, anche del mockumentary, spinge l'acceleratore sulle invenzioni con le quali ha condito tutta la sua vicenda umana e sportiva. Sì, certo, assolutamente, anche questa è una particolarità del documentario, del fatto che ci siano episodi reali raccontati in prima persona appunto dal calciatore e episodi creati ad hoc, come ad esempio alcune parti dell'allenamento, quando deve scendere in campo e viene richiamato dal presidente per poter scendere in campo. Non è lui, ma ovviamente è un attore con un fisico simile a quello del Kaiser. Quindi c'è anche questa particolarità nel film, di unire la finzione alla realtà, con le testimonianze vere e proprie del Kaiser. C'è anche un momento emozionante in cui viene messo di fronte alla verità e insomma è costretto a farci i conti. Sì, decisamente. Sì. Io penso che siano anche gli episodi più simpatici di tutto il film, in cui lui stesso racconta come era capace ad imbrogliare e come poteva far sembrare ai più di essere capace a giocare, o quando per tanti amici, diversi calciatori ed entrare nel mondo fantastico e stellato del calcio, riusciva a distrupolarsi, insomma, con sotterfugi e altro che non voglio raccontare, ma che si vedrà nel film. Francesco, che tipo di distribuzione sarà? Sì, allora stiamo cercando di fare una distribuzione ad eventi, dove è possibile, ma abbiamo anche dei giornalisti sportivi a raccontare la storia, poiché è una storia piuttosto rinomata, come succederà ad esempio a Milano e forse anche a Torino, e mentre per Roma stiamo cercando di coinvolgere o qualche attore o qualche calciatore, però il mondo del calcio è molto molto difficile da raggiungere, quindi sarà tutta una distribuzione ad eventi, uno o due giorni in sala, e poi si spera di riuscire a portarlo in TV, perché insomma riteniamo che la storia possa interessare anche il mondo della TV. Anche perché ha dei tratti che hanno dell'incredibile, insomma ha passato più di 20 anni in giro per il mondo, da una società all'altra, alcune veramente, altre inventate del tutto, però comunque nel mondo del calcio, pagato, stipendiato, e che e risulta anche calciatore professionista. Esatto, decisamente sì, è questa la particolarità, ma credo che fosse tutta la fortuna che non ci fossero i mezzi odierni per conoscere tali vicende, quindi si basava sul passaparola, quindi si basava sul fatto di avere importanti conoscenze con il mondo della malavita o con il mondo del calcio, come ad esempio ripeto Pepetto, per cui riusciva a ritrupolarsi nelle società e inventarsi infortuni o altro per riuscire a non scendere in campo e dimostrare la propria incapacità nel calciare un pallone. Poi insomma c'era il mondo del Brasile, che era un mondo stellato in cui praticamente bastava riuscire a fare una partita buona o avere delle conoscenze importanti per essere ritenuti dei fenomeni. All'estero sai che percorso ha avuto? All'estero ha avuto una distribuzione inglese e so che sono in trattativa con la Spagna. Penso che non sia stato distribuito in altri paesi, perché ovviamente essendo anche un prodotto brasiliano ha difficoltà ad arrivare in Europa, o le distribuzioni hanno il terrore di prendere un prodotto brasiliano e riuscire a portarlo nel proprio paese. Comunque è una coproduzione inglese-brasiliana. Inglese-brasiliana, sì. Poi il regista insomma non è proprio l'ultimo degli arrivati, in quanto ha già fatto dei documentari e delle serie TV, quindi ha un'esperienza alle spalle piuttosto importante. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Kaiser, il più grande truffatore della storia del calcio, al cinema da martedì 16 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film, che lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. A te, Clepi, e un saluto a tutti. Grazie mille. Con il regista Roberto Faenza per parlare del progetto U-Trailer per un rinascimento digitale del cinema classico italiano. Roberto, ben trovato. Buonasera a tutti, come va? Tutto bene, tu? Bene, beh, in un paese così dire bene non è facile. Comunque diciamolo, dai, per tenerci su. Ok. È stato presentato l'altro giorno questo progetto molto interessante, ce ne parli? Allora, questo progetto si chiama U-Trailer, è un progetto dedicato alle scuole superiori italiane, tra l'altro finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, e tende a far conoscere ai nostri ragazzi il cinema del passato che loro ignorano completamente. Ti faccio un esempio, io pochi mesi fa vado spesso nelle scuole a mostrare film miei e non soltanto miei. Pochi mesi fa ho fatto una proiezione Sostiene Pereira a circa 400 ragazzi di un liceo romano, nessuno aveva mai visto, ma nessuno mai visto un film di Mastroianni, con Mastroianni. Poi pochi mesi prima ero andato a Palermo a presentare un film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano. C'erano 1000 ragazzi tra liceo scientifico e liceo classico, mai nessuno, ma neanche uno anche lì, sapeva chi era Francesco Rosi. E allora mi sono convinto che siamo veramente, non so, al crimine verso la memoria, ma non è colpa dei ragazzi ovviamente, è colpa nostra che non abbiamo mai fatto nulla per coltivarla.

molto molto diversa da quello che spesso si sente, si viene raccontata dai mass media. E quindi appunto nasce con un altro nome, si chiamava C'è un tempo per l'integrazione, e da quest'anno si chiama Integrazione Film Festival, perché ha anche ambizione di continuare a crescere e diventare un festival cinematografico a tutti gli effetti, già lo è. Quest'anno abbiamo 10 corti di finzione in concorso e 5 documentari, più un film di apertura che anche questo corto di finzione, che è stato vincitore del bando Migrarti l'anno scorso. Avremo anche diversi ospiti, registi, attori, insomma un programma piuttosto ricco. Il festival inizia il 10 di aprile in auditorium di Piazza di Libertà a Bergamo e si conclude dal punto di vista cinematografico il sabato 14 a Sarnico. Sabato 13 a Sarnico, però ha ancora qualche evento collaterale la domenica 14. Gli orari e i luoghi? Si trovano tutti sul sito, il sito è www.untempoper.it, untempoper.com, lì si trova tutto il programma. Comunque li riassumo brevemente. Partiamo quindi mercoledì 10 aprile in Auditorium di Piazza della Libertà alle 19:45 con un brindisi inaugurale e poi col film di apertura che è Indovina chi ti porto per cena di Amin Nour, che è un attore e regista di origini somale che vive e lavora da molti anni in Italia, e ci sarà lui e ci racconterà un po' della sua esperienza e del suo film. E poi avremo 4 tra i documentari e i corti di fiction in gara, anche questi accompagnati in alcuni casi dai loro registi, che saranno disponibili poi per parlare con il pubblico. Giovedì 11 aprile partiamo alle 18, anche qui avremo 6 film presentati, sempre tra documentari e fiction. Venerdì c'è una pausa della programmazione cinematografica, c'è invece uno spettacolo teatrale a Sarnico, nell'auditorium comunale, alle 20:45. Sabato invece il gran finale, come si dice, alle 19:30 iniziamo con la presentazione di un concorso fotografico, poi c'è offerta un buffet, una pericena offerta, e dopodiché ci sono le ultime presentazioni e la premiazione, la tradizionale premiazione dei vincitori, sia dei documentari che dei cortometraggi. C'è un focus specifico quest'anno? Ma come tutti gli anni si cerca, come dicevo prima, di raccontare l'integrazione, esperienze possibili, auspicabili, ma anche realizzate effettivamente di integrazione, e cercando di raccontare più che il conflitto che c'è e viene spesso esasperato, ma le soluzioni che ogni giorno vengono sperimentate nel nostro paese piccole e grandi soluzioni che poi il cinema racconta, sia in quello che viene chiamato cinema del reale ormai, cioè il documentario, sia con la fiction, che spesso guarda più a uno sguardo un po' più in là di quella che è il mondo attuale, cerca di intravedere il futuro. Invito quindi tutti gli interessati a venire a partecipare alle proiezioni. L'ingresso è gratuito. Ci saranno anche incontri con gli autori? Sì. Ogni sera abbiamo degli ospiti che appunto accompagnano i loro film in concorso e ci potranno raccontare appunto la loro esperienza e descrivere appunto il loro lavoro. Allora, ricordiamo la 13ª edizione dell'Integrazione Film Festival a Bergamo e Sarnico dal 10 al 14 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Visinoni di Lab 80 Film, che collabora alla manifestazione. Sergio, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo. A presto. Ciao. Ciao.